perché loro ne hanno fatto una questione di pianificazione industriale, noi no, perché loro hanno avuto la fortuna di un paio di registi, penso a Menabar, per dirne uno solo, che non limitavano il cinema spagnolo dei maestri al solo Almodóvar, perché sono stati bravi nel marketing e ci hanno puntato forte. Però attenzione, noi dedichiamo quest'anno addirittura una mattinata di incontro fra giornalisti, scrittori, ma soprattutto registi, sceneggiatori e produttori, intitolata Vedo Nero 2, vorrei aggiungere La Vendetta, perché fra film fatti, film pronti, film in realizzazione in questo momento, i colori del noir in Italia nel 2012 toccano oltre 70 film. Allora, se questo non diventa il classico filone, la classica modarella passeggera all'italiana, vuol dire che avremmo di fronte a noi non magari un'industria, ma un progetto artigianale che nel giro di 4-5 anni ci può appunto riportare a un cinema italiano degli anni 70, mica sognare l'impossibile.